28. Il conforto nel dolore. Quel pomeriggio camminava svelta verso la casa degli Higgins. Mary stava sbirciando fuori dalla finestra per vedere se arrivava con un'espressione un po' diffidente sul volto. Margaret le sorrise, guardandola negli occhi per rassicurarla. Attraversarono velocemente la casa, salirono al piano di sopra dove giaceva pacificamente la morta. In quel momento Margaret fu contenta di essere andata. Sul volto, spesso così stremato dal dolore, così agitato dai brutti pensieri, c'era il sorriso vago e delicato del riposo eterno. Lentamente gli occhi di Margaret si riempirono di lacrime, ma una profonda calma penetrò nella sua anima. Era quella la morte? Sembrava più serena della vita. Le vennero in mente tutte le meravigliose scritture, essi riposeranno dalle loro fatiche, Apocalisse, e chi è sfinito trova riposo, Giobbe, al suo prediletto egli lo darà nel sonno, Salmi. Lentamente, molto lentamente, Margaret si allontanò dal letto. Mary stava singhiozzando umilmente nell'ombra. Scesero di sotto senza dire una parola. Con una mano appoggiata al tavolo, Nicholas Higgins era in piedi in mezzo alla stanza. I suoi occhi grandi erano sbarrati per la notizia che aveva sentito, mentre attraversava il cortile da un buon numero di lingue lunghe. Aveva gli occhi asciutti e furenti mentre cercava di realizzare l'idea che fosse morta, facendo fatica a capacitarsi che quello non sarebbe più stato il suo posto. Infatti era stata malata in punto di morte per così tanto tempo che si era convinto che non sarebbe morta, che se la sarebbe cavata. Margaret si sentiva come se non avesse nessun diritto di essere lì a informarsi come una di famiglia sulle circostanze della morte di cui lui, il padre, aveva appena saputo. Si era fermata un istante sulla scala, ripida e sbilenca appena lo aveva visto, ma cercò di uscire senza farsi notare dal suo sguardo assente e di lasciarlo al suo dolore tra coloro che facevano ufficialmente parte della famiglia. Mary si sedette sulla prima sedia a portata di mano e si mise a piangere con il grembiule buttato sopra la testa. Il rumore del pianto sembrò ridestarlo. Afferrò improvvisamente il braccio di Margaret, trattenendola lì fino a quando non riuscì a parlare. Aveva la gola secca, le parole gli uscirono impastate, strozzate e roche. Eravate con lei? L'avete vista morire? No, replicò Margaret, adoperando tutta la sua pazienza per restare ormai che si era accorto di lei. Passò un po' di tempo prima che parlasse di nuovo, ma continuava a tenerla per il braccio. Tutti gli uomini devono morire, disse alla fine con una strana solennità che inizialmente diede a Margaret l'impressione che avesse bevuto, non tanto da ubriacarsi, ma abbastanza da rendere confusi i suoi pensieri. Ma era più giovane di me. Rifletteva ancora sull'accaduto senza guardare Margaret, anche se la stringeva forte. Improvvisamente alzò lo sguardo verso di lei con un'aria terribilmente inquisitoria. Siete proprio sicura che è morta e non sia svenuta? Le è capitato tante volte in passato. È morta, rispose Margaret. Parlare con lui non le faceva nessuna paura, sebbene le facesse male, stringendole il braccio e scintille di rabbia attraversassero i suoi occhi inebetiti. È morta, disse. La guardava ancora con quello sguardo indagatore che parve svanire dai suoi occhi mentre la fissava. Poi improvvisamente lasciò la presa sul braccio di Margaret e buttandosi quasi con tutto il corpo sul tavolo si mise a scuoterlo e con esso ogni mobile nella stanza tra violenti singulti. Mary gli si avvicinò tremando. Levati di torno! Urlò, cercando di colpirla selvaggiamente alla cieca. Che me ne importa di te? Margaret le prese la mano e la strinse affettuosamente nelle sue. Lui si strappò i capelli, sbatté la testa contro il legno duro, dopodiché si distese, esausto e intontito. Sua figlia e Margaret continuavano a restare immobili. Mary tremava dalla testa ai piedi. Alla fine, poteva essere trascorso un quarto d'ora come un'ora, si alzò. Aveva gli occhi gonfi e iniettati di sangue e sembrava essersi dimenticato che loro erano lì. Quando se ne accorse e le guardò, si diede una forte scrollata, lanciò loro un'altra occhiata minacciosa, non disse più nulla ma si diresse verso la porta. Oh, papà, papà, disse Mary aggrappandosi al suo braccio, non stasera. Quando Qualsiasi sera, ma non questa. Oh, aiutatemi, sta uscendo di nuovo a bere. Papà, non te lo permetto. Puoi picchiarmi, ma non ti lascerò. L'ultima cosa che mi ha detto è stata di non farti bere. Ma Margaret stava in piedi sulla porta, silenziosa e allo stesso tempo imponente. Lui la guardò con aria di sfida. Questa è casa mia. Togliti di mezzo, ragazzina, o ti tolgo io. Con un gesto violento si era liberato di Mary e sembrava pronto a colpire Margaret. Ma lei rimase immobile, senza mai abbassare il suo sguardo profondo e severo. Anche lui la fissò con ferocia. Se lei avesse mosso una mano o un piede, l'avrebbe spinta con una violenza ancora maggiore di quella usata con sua figlia, che aveva la faccia che sanguinava dopo essere caduta contro una sedia. Perché mi guardate in quel modo? Chiese alla fine, scoraggiato e intimorito dalla sua severa calma. Se pensate di impedirmi di fare quello che voglio perché lei vi amava, e in casa mia per giunta, dove non vi ho mai chiesto di venire, vi sbagliate. Non è mica facile per un uomo non andare dove trova l'unica consolazione che gli è rimasta. Margaret sentiva che lui riconosceva la sua forza. Qual era la prossima cosa da fare? Si era seduto su una sedia vicino alla porta, mezzo convinto, mezzo infastidito, intenzionato a uscire non appena lei si fosse spostata da lì, ma non voleva usare la violenza, come aveva minacciato di fare neanche 5 minuti prima. Margaret gli posò una mano sul braccio. «Venite con me», disse. «Venite a vederla». Parlò con voce grave e solenne, senza nessun dubbio o timore, né su di lui, né sulla sua obbedienza. Nicholas si alzò lentamente, restò in piedi un po' esitante, con un'incertezza caparbia sul volto. Lei lo aspettò lì, calma e paziente. Aspettò che avesse voglia di muoversi. Lui provò uno strano piacere nel farsi attendere, ma alla fine si mosse verso le scale. Erano entrambi in piedi accanto alla salma. Le ultime parole che ha detto a Mary sono state: «Tieni mio papà lontano dall'alcol». «Non può ferirla adesso», borbottò. «Niente può ferirla adesso». Poi, alzando la voce fino a un urlo disperato, continuò: «Possiamo discutere e litigare, possiamo fare pace ed essere amici, possiamo ridurci a pelle e ossa per la fame, ma nessuno di tutti i nostri dolori la toccherà più. Lei la sua parte di dolore l'ha avuta prima col duro lavoro e alla fine con la malattia, ha fatto una vita da cani, e morire così, senza conoscere neanche una briciola di gioia in tutti i suoi giorni. No, ragazza mia, no. Qualsiasi cosa ha detto, non può venire a sapere niente adesso. E io devo farmi un goccio, proprio per calmarmi il dolore». «No», disse Margaret, addolcita dai suoi modi più dolci, «non fatelo. Anche se la sua vita è stata come avete detto, ad ogni modo non ha avuto, come qualcuno ha, paura della morte. Oh, avreste dovuto sentirla parlare dell'aldilà, della vita ignota, nella dimensione divina, nella quale è diretta». Lui scosse la testa, alzando lateralmente lo sguardo verso Margaret mentre lo faceva. Il suo volto emaciato smunto la travolse. «Siete provato? Dove siete stato tutto il giorno? Non al lavoro». «Non al lavoro, sicuro?» disse con una risata tetra. «Non a quello che chiamate voi il lavoro. Ero coi delegati finché mi è venuta la nausea a cercare di far ragionare gli idioti. E hanno chiamato per andare dalla moglie di Boucher stamattina prima delle 7. È costretta a letto, ma stava lì a fare fuoco e fiamme per sapere dov'era quella bestia di suo marito, come se ero io che dovevo trattenerlo. Figuriamoci se quello mi stava a sentire. Razza di idiota! Mettersi a ficcare il naso in tutti i nostri piani. E me li sono consumati i piedi a forza di andare in giro a cercare gente che non si faceva trovare adesso che la legge ce l'abbiamo contro. E il cuore me lo sono consumato, che è anche peggio di consumarmi i piedi. E metti che mi sono fermato da un amico che mi ha offerto da bere, ma io mica lo sapevo che era qua, che stava morendo. Bess, ragazza mia, tu mi crederesti? Lo faresti, non è vero?» Si rivolse a quella povera figura muta, implorandola forse natamente. «Sono sicura», disse Margaret. «Sono sicura che non lo sapevate. È successo tutto all'improvviso, ma adesso, vedete, sarebbe diverso, voi lo sapete. La vedete distesa qui, avete sentito quello che ha detto prima di esalare l'ultimo respiro. Non ci andrete, vero?» Nessuna risposta. Infatti, dove avrebbe cercato conforto? Venite a casa con me, si azzardò a dire alla fine, titubante per l'audace proposta che stava facendo. Almeno potrete fare un pasto decente, sono sicura che ne avete bisogno. Vostro padre è un parroco? Domandò, dando un'improvvisa svolta ai suoi pensieri. Lo era, disse Margaret brevemente. Beh, verrò a prendere una tazza di tè con lui, visto che me lo avete chiesto voi. C'ho un sacco di cose che ho spesso voluto chiedere a un parroco, e non mi importa se adesso predica ancora o no. Margaret era perplessa, lui che prendeva il tè con suo padre, che sarebbe stato del tutto impreparato per quella visita, e sua madre, così malata. Sembrava totalmente fuori questione, ma se si fosse tirata indietro adesso sarebbe stato ancora peggio, di sicuro l'avrebbe spedito dritto in qualche bottega del gin. Pensò che se fosse riuscita anche soltanto a portarlo a casa loro, il passo sarebbe stato una tale conquista che per quello successivo avrebbe lasciato fare la sorte. Arrivederci, ragazza mia. Ci siamo separati alla fine, è vero? Ma sei stata una benedizione per tuo padre da quando sei nata. Benedette le tue candide labbra, figlia mia. Ci hanno sopra un sorriso adesso. Sono contento di vederlo ancora una volta, anche se sarò solo e infelice per sempre. Si chinò e baciò con amore sua figlia, le coprì il volto e si girò per seguire Margaret. Lei era corsa in fretta di sotto per informare Mary del loro accordo, per dirle che era l'unico modo a cui aveva pensato per tenerlo lontano dalle botteghe del gin, per spronare Mary a unirsi a loro, perché l'idea di lasciare la povera, amorevole ragazza da sola la turbava profondamente. Tuttavia, Mary aveva amici tra i vicini, diceva, che sarebbero andati lì a sedersi un po' con lei. Era tutto a posto. Il padre, però, avrebbe continuato a parlare, ma lui era lì vicino, si era liberato delle sue emozioni, come se provasse vergogna per aver dato loro sfogo, si era lasciato andare così tanto da accennare un sorriso amaramente allegro, come il crepitio dei pruni sotto la pentola. Vado a prendere il tè con suo padre, vado. Ma come uscì in strada? Si abbassò il berretto sulla fronte mentre camminava accanto a Margaret. Non guardò né a destra né a sinistra. Temeva di stare male per le parole, ancora di più per gli sguardi e le condoglianze dei vicini, quindi camminarono senza parlare. Quando arrivò vicino alla strada in cui sapeva che viveva la ragazza, si guardò i vestiti, le mani e le scarpe. «Dite che mi sarei dovuto lavare prima?» Beh, certamente sarebbe stato auspicabile, ma Margaret gli assicurò che poteva andare in cortile e che gli avrebbero dato del sapone e un telo. Non poteva farselo scappare dalle mani proprio in quel momento. Mentre lui seguiva la domestica per il corridoio e attraversava la cucina, facendo attenzione a mettere il piede su ogni segno scuro del disegno sul pavimento in tela cerata, in modo da nascondere le sue sporche impronte, Margaret corse di sopra. Incontrò Dixon sul pianerottolo. «Come sta la mamma? Dov'è papà?» La signora era stanca ed era andata in camera sua. Aveva chiesto di andare a dormire, ma Dixon l'aveva convinta di stendersi sul divano e a farsi portare il tè lì. Meglio così che se si fosse innervosita per lo stare troppo nel letto. Fin qui tutto bene. «Ma dov'era il signor Hale?» «In salotto». Margaret entrò tutta trafelata per la storia che doveva raccontare in fretta. Ovviamente non la raccontò tutta e suo padre fu alquanto colto di sorpresa all'idea che nel suo tranquillo studiolo ci fosse ad aspettarlo un tessitore ubriaco con il quale avrebbe dovuto prendere il tè e per conto del quale Margaret lo stava supplicando con una certa apprensione. Il mite signor Hale, dal cuore tenero, avrebbe prontamente cercato di consolarlo nel suo dolore, ma sfortunatamente il punto sul quale Margaret con più forza insisteva era il fatto che aveva bevuto e che lei se l'era portato a casa come ultimo espediente per tenerlo lontano dalle botteghe del gin. Gli eventi si erano susseguiti uno dopo l'altro in modo così naturale che Margaret non fu del tutto conscia di quello che aveva fatto finché non vide sul volto del padre un lieve sguardo di fastidio. «Oh, papà! È un uomo che non ti dispiacerà affatto se non ne rimarrai sconvolto alla prima impressione. Ma Margaret, portare a casa un ubriaco e tua madre è così malata. Margaret si avvilì. Mi dispiace, papà. È quieto, non è affatto ubriaco. È stato soltanto un po' strano all'inizio, ma può essere stato il duro colpo della morte della povera Bessie. Gli occhi di Margaret si riempirono di lacrime. Il signor Hale prese quel supplicante visino con entrambe le mani e le diede un bacio sulla fronte. Va tutto bene, tesoro, ci andrò e lo metterò il più possibile a suo agio e tu ti occuperai di tua madre. Ma se riesci a venire nello studio sarò ben contento, così saremo in tre. Oh, sì, grazie. Ma mentre il signor Hale stava uscendo dalla stanza, gli corse dietro. Papà, non stupirti per quello che dice, non è un, voglio dire, non crede molto in quello a cui crediamo noi. Mio Dio, un tessitore ubriaco e miscredente, pensò il signor Hale sconcertato. Ma Margaret si limitò a dire: se tua madre va a dormire, raggiungici subito, mi raccomando. Margaret entrò nella camera della madre. La signora Hale si risvegliò dopo un sonnellino. Quando hai scritto a Frederick, Margaret, ieri o l'altro ieri? Ieri, mamma. Ieri. E la lettera è stata spedita? Sì, l'ho portata io stessa. Oh, Margaret, ho tanta paura per il suo arrivo. Se dovessero riconoscerlo, se dovessero prenderlo, se dovessero giustiziarlo dopo tutti questi anni che ha vissuto lontano e al sicuro, continuo ad addormentarmi e a sognare che venga catturato e processato. Oh, mamma, non temere. Ci saranno dei rischi, è ovvio, ma li ridurremo al minimo. E poi ce ne sono così pochi. Se a quest'ora fossimo stati a Helston, ce ne sarebbero stati 20, 100 volte di più. Lì tutti si ricorderebbero di lui. E se si sapesse che c'è un estraneo in casa, indovinerebbero senza dubbio che si tratta di Frederick. Mentre qui nessuno ci conosce o gli importa così tanto di noi da notare cosa facciamo. Mentre sarà qui, Dixon farà la guardia alla porta come un drago, vero Dixon? Dovranno passare sopra il mio corpo, disse Dixon, mostrando i denti alla sola idea. E potrà uscire soltanto dopo il tramonto, povero ragazzo. Povero ragazzo, fece ecco la signora Hale. Ma vorrei quasi che non avessi scritto. Sarebbe troppo tardi per fermarlo se gli scrivessi di nuovo, Margaret. Temo di sì, mamma, disse Margaret, ricordandosi dell'urgenza con cui l'aveva supplicato di venire subito se desiderava vedere la madre ancora in vita. Oh, non mi è mai piaciuto fare le cose così in fretta, disse la signora Hale. Margaret restò in silenzio. Andiamo, andiamo adesso, signora, disse Dixon con una sorta di forzata allegria. Sapete che vedere il padroncino Frederick è la cosa che più desiderate al mondo. Sono contenta che Margaret abbia scritto subito, senza nessun tentennamento. Avevo proprio intenzione di farlo io stessa. E lo terremo nascosto. Faremo tutto in funzione di questo. C'è soltanto Marta in casa e non farebbe un granché per salvarlo in casa di necessità. E sto pensando che potrebbe andare a trovare sua madre proprio in quel periodo. L'ha detto già una o due volte che vorrebbe andare, dato che alla madre è venuto un colpo perché la figlia è venuta qui, solo che non le andava di chiedere. Ma ci penserò io a fare in modo che sia ben lontana, non appena sapremo quando arriva. Dio lo benedica. Adesso bevete il vostro tè, signora, in tranquillità e fidatevi di me. La signora Hale si fidava più di Dixon che di Margaret. Le parole di Dixon per il momento la calmarono. Margaret versava il tè in silenzio, cercando di pensare a qualcosa di carino da dire, ma la mente la portò a proporre argomenti come le avventure di Daniel O'Rourke quando l'uomo che viveva sulla luna gli chiese di scendere dalla sua falce su cui si era seduto. Più insisti, meno ti ascolteremo. Più cercava di pensare a qualcosa, qualsiasi cosa che non fosse il pericolo al quale Frederick sarebbe stato esposto, più la sua immaginazione restava attaccata, stretta a quel pensiero nefasto. La madre chiacchierò a lungo con Dixon e sembrò aver dimenticato del tutto la possibilità che Frederick venisse preso e giustiziato. Aveva del tutto dimenticato che per suo desiderio e con l'azione di Margaret era stato chiamato a quel pericolo. Sua madre era quel tipo di persona che tira fuori possibilità terribili, miserabili probabilità, occasioni di sventura di ogni tipo, come un razzo lancia scintille. Ma se le scintille capitano su del materiale combustibile, prima bruciano lentamente sotto la cenere, ma alla fine scoppiano in una fiammata spaventosa. Margaret fu sollevata quando, svolti in modo premuroso e puntuale tutti i suoi doveri di figlia, poté scendere nello studio. Si chiedeva come il padre e Higgins si stessero trovando insieme. Tanto per cominciare, quel signore distinto Educato, semplice all'antica, aveva spontaneamente tirato fuori, con i suoi modi raffinati e cortesi, tutto il garbo che in quell'altro era latente. Il signor Hale trattava tutti i suoi simili allo stesso modo, non gli era mai venuto in mente di fare delle distinzioni di classe. Sistemò una sedia per Nicholas. Il signor Hale restò in piedi finché l'altro, dietro suo invito, non si accomodò e lo chiamò tutto il tempo signor Higgins, invece di un asciutto Nicholas o Higgins, ai quali il tessitore ubriacone miscredente, tra virgolette, era abituato. Ma Nicholas non era né un ubriacone abituale né un vero e proprio ateo. Beveva per annegare le preoccupazioni, come avrebbe detto lui stesso, ed era ateo, nel senso che non aveva mai trovato una qualche forma di fede alla quale potersi aggrappare anima e corpo. Margaret fu un po' sorpresa e molto contenta quando trovò suo padre Higgins, che impegnati in una fervente conversazione, si rivolgevano l'uno all'altro in modo educato e rispettoso, nonostante le loro opinioni fossero contrastanti. Nicholas, pulito, anche se aveva usato soltanto la pompa dell'acqua, ordinato e pacato conversatore, era un'altra persona per lei, abituata unicamente alle burbere e libertà del suo focolare domestico. Si era lisciato i capelli sulla fronte con l'acqua fresca, si era aggiustato il fazzoletto che portava al collo e aveva preso in prestito un curioso moccolo di candela per lucidarsi gli zoccoli. E se ne stava lì, seduto, imponendo alcune opinioni a suo padre, con un forte accento del Darkshire, è vero, ma con un tono di voce più basso e con una bella espressione seria e composta sul volto. Anche suo padre era interessato a quello che il suo compagno gli stava dicendo. Si voltò a guardarla quando entrò. Sorrise e silenziosamente le cedette il suo posto e poi si mise di nuovo a sedere, il più rapidamente possibile, e con un piccolo inchino per scusarsi con il suo ospite per l'interruzione. Higgins la salutò con un cenno del capo e lei dispose delicatamente il suo materiale da lavoro sul tavolo e si apprestò ad ascoltare. «Come vi stavo dicendo, signore, penso che non ce ne avreste avuta molta di fede se vivevate qui, se crescevate qui. Vi chiedo scusa se non uso i termini giusti, ma quello che intendo per fede in sto caso è pensare a detti e massime e promesse fatte da gente che non avete mai visto, su cose e su vite che non avete mai visto e che nessuno ha visto. Ora, voi dite che queste cose sono vere? E detti veri e una vita vera? Io dico solo, dov'è la prova? Tanti intorno a me sono molto più saggi, hanno avuto un'istruzione migliore della mia. Gente che ci ha avuto tempo di pensare a queste cose, mentre il mio tempo io l'ho dovuto dedicare a guadagnarmi il pane. Bene, queste persone le vedo, le loro vite sono abbastanza trasparenti per me, è gente concreta, non credono mica nella Bibbia, non loro. Possono dire che ci credono per una questione di formalità, ma Dio mio, signore, pensate che il loro primo pensiero al mattino è cosa devo fare per meritare la vita eterna? Oh, cosa devo fare per riempirmi le tasche questo benedetto giorno? Dove devo andare? Quali buoni affari posso fare? Il borsello e l'oro e le banconote sono cose concrete, cose che si possono sentire e toccare. Queste sono cose reali. E la vita eterna è tutta una chiacchiera, molto giusta, perdonatemi, signore, siete un parroco disoccupato, credo. Beh, non parlerò mai senza rispetto di un uomo che è nello stesso guaio in cui sono io. Ma vi faccio solo un'ultima domanda, signore. Non vi chiedo una risposta, soltanto mettetevi in bocca la pipa e fatevi una fumata prima di chiamarci stupidi e babbei, perché crediamo solo in quello che vediamo. Ma mettiamo che la salvezza, l'aldilà e tutto il resto sono veri, non solo nei discorsi degli uomini, ma nel profondo dei loro cuori. Non pensate che insisterebbero per inculcarcele come fanno con l'economia politica? Questa loro saggezza non stando nella pelle dalla voglia di ficcarcela in testa, ma l'altra, se è vera, sarebbe una conversione ben più importante. Ma i padroni non hanno nulla a che fare con la vostra religione, ciò che li collega a voi è soltanto il commercio. Così la pensano loro, e quindi ciò che a loro importa è soltanto di correggere le vostre opinioni nell'attività commerciale. Sono contento, signore, disse Higgins, socchiudendo curiosamente gli occhi che avete aggiunto. Pensano loro. Mi sa che avrei creduto che eravate un ipocrita se non lo facevate, con tutto che siete un uomo di chiesa, o proprio perché lo siete. Se parlavate della religione come di una cosa che, se è vera, non era affare di ognuno di inculcarla agli altri come la cosa più importante al mondo, vi avrei preso per un bel furfante. E preferisco pensarvi come uno stupido che come un imbroglione, senza offesa, spero, signore. Niente affatto. Mi credete in errore e io vi credo in un errore ancora più fatale. Non mi aspetto di convincervi in un giorno, non in una sola conversazione, ma conosciamoci e parliamoci liberamente di queste cose e la verità prevarrà. Non avrei fede in Dio se non credessi in questo, signor Higgins. Io penso che quale che sia la fede che avete abbandonato, voi crediate. La voce del signor Hay si abbassò con reverenza. Voi credete in lui. Improvvisamente Nicholas Higgins si tirò su tutto impettito. Margaret balzò in piedi perché pensava, dalle contrazioni sul suo viso, che stesse per avere una crisi. Il signor Hale la guardò sconcertato e finalmente Higgins trovò le parole. Attento, potrei mettervi le mani addosso perché state lì a tentarmi. È forse affar vostro di mettermi in croce con questi dubbi? Pensate a lei che è là distesa dopo la vita che ha fatto. E dopo pensate a come negarmi l'unica consolazione che mi rimane, che c'è un Dio e che è Lui che ha deciso della sua vita. Non ci credo che tornerà a vivere, disse sedendosi e continuando a parlare con tono spento come rivolto al fuoco, indifferente. Non credo in nessun'altra vita oltre a questa, in cui lei di tribolazioni ne ha sopportate tante nella sua pena infinita. E non ce la faccio a pensare che è stata tutta una serie di coincidenze che potevano essere cambiate con un soffio di vento. Tante volte ho pensato che non credo in Dio, ma non l'ho mai espresso a parole come fanno in molti. Posso essermi preso gioco di quelli che ci credevano per spavalderia, ma mi sono guardato alle spalle dopo per vedere se lui mi ascoltava, se mai c'era un lui. Ma oggi, desolato come sono, non voglio ascoltare voi con le vostre domande e i vostri dubbi. C'è soltanto una cosa pacifica e sicura in tutto questo mondo che va a rotoli. E ragione o non ragione, io mi ci aggrappo. Fanno presto le persone felici. Margaret gli toccò delicatamente il braccio. Non aveva ancora mai parlato e lui non l'aveva neanche sentita alzarsi. Nicholas, non vogliamo ragionare. Avete frainteso mio padre. Non ci appelliamo alla ragione, noi abbiamo fede. E lo stesso vale per voi. In momenti così la fede è il solo unico conforto. Si voltò e le prese la mano. Sì, è vero, è vero, asciugandosi le lacrime con il dorso della mano. Ma sapete, lei è lì a casa, morta, e sono tutto stordito dal dolore. In alcuni momenti non so quello che dico. È come se i discorsi che la gente ha fatto, cose intelligenti e ingegnose, ho pensato a suo tempo, mi vengono su adesso che c'ho il cuore a pezzi. È fallito anche lo sciopero, non lo sapete, signorina. Stavo tornando a casa per chiederle come un mendicante un po' di conforto in quella difficoltà e mi sono scontrato con uno che mi ha detto che era morta, appena morta, nient'altro. Ma mi bastava. Il signor Hale si soffiò il naso e si alzò per spegnere le candele così da nascondere la sua commozione. Non è un ateo, Margaret, come hai potuto dirlo? Mormorò con tono di rimprovero. Intendo proprio leggergli il 14° capitolo del libro di Giobbe. Non ora, papà, secondo me. O forse non leggerglielo affatto. Chiediamogli dello sciopero e diamogli tutta la comprensione di cui ha bisogno e che sperava di avere dalla povera Bessie. Quindi gli fecero delle domande e si misero in ascolto.